Son of a bitch. Solo quando sono solo ammetto, questa cosa non fa per me. Scrivo tanto e dopo mi pento di aver detto tanto di me. Sono anni che scommetto e perdo, come posso avere ancora fiducia in me? Sono in mezzo ma sono un disperso, e poi cosa vuol dire? Pino! Questa voglia di viverlo è più grande della voglia di dividerlo. Per ora mi sveglio schiarendo la gola e vado a pisciare con una ciabatta sola. Se mi ascolti la vita ti sorride, perché ti consola che ora un altro che uccide. Yeah, vogliono i testi pesanti con la droga, le armi, la mala. Si vogliono incattivire, raga, avete un motivo per infierire. Ho vari modi di dire, metto la faccia. Vivo giorni da preda nelle stagioni di caccia. Raga, non credo nella minaccia, nessun pericolo finché non butto giù una traccia. Sono solo con la voglia che mi incoraggia, facciamo una bomba. La la la la. Solo quando sono solo ammetto, questa cosa non fa per me. Scrivo tanto e dopo mi pento di aver detto tanto di me. Sono anni che scommetto e perdo, come posso avere ancora fiducia in me? Sono in mezzo ma sono un disperso, e poi cosa vuol dire? Vino e che gli è fine. Quando scrivo mi macchio di inchiostro, scrivo quando mi macchio di questo posto. Tutto ha un costo, specie i vizi, belli gli inizi, fanculo ai comizi. Mi conosco, non diventerò un mostro, lo riconosco, dovrei fare un ricorso. Era solo un provare per gioco, ma al poco è iniziata a non bastare. La la la, puff, e vissero felici e contenti, e ancora ci credono ste ragazze dementi. Io vivo, spingo, fino all'ultima botta, ma lo levo sempre in tempo prima di farla grossa. Oh raga, scusatemi se vado di corsa, e se mi tiro ancora una bossa. Non dico mai la verità per non farla contraddire, e più ve ne bevete meno state a ribadire che solo quando sono solo ammetto, questa cosa non fa per me. Scrivo tanto e dopo mi pento di aver detto tanto di me. Sono anni che scommetto e perdo, come posso avere ancora fiducia in me? Sono in mezzo ma sono un disperso, e poi cosa vuol dire? Vino che gli è fine. Quando sono solo ammetto, questa cosa non fa per me. Scrivo tanto e dopo mi pento di aver detto tanto di me. Sono anni che scommetto e perdo, come posso avere ancora fiducia in me? Sono in mezzo ma sono un disperso, e poi cosa vuol dire? Vino e che gli è fine. Solo quando sono solo ammetto, questa cosa non fa per me. Scrivo tanto e dopo mi pento di aver detto tanto di me. Sono anni che scommetto e perdo, come posso avere ancora fiducia in me? Sono in mezzo ma sono un disperso, e poi cosa vuol dire? Vino e che gli è fine.